di lunedì. Non erano chiare, no, esatto. Non sono chiare. Grazie Olga, vado subito a Giovanni Parente. Olga, per chi è? Sì, Olga, Giovanni. Una valigia piena di... Dovremmo fare una puntata di siamo metereopatici. Ah, tra l'altro mi spieghi come si dice correttamente? Metereopatici. Eccolo là, ottimo. È anche un po' uno scioglilingua. Io vi ascolto tutti i giorni quando vado a camminare con le cuffiette. Bravo. Sì. Speriamo di non peggiorare gli acufeni. Così. Ridurre le culotte de cheval, insomma, quelle si chiamano anche così. Non era di Montan questa. Ecco, non era di Montan, Paulette non le aveva. Con i muri. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. La la la. Di lavoro fai, hai un contratto o non l'hai avuto mai? Che razza di lavoro fai? Si dice che il lavoro nobiliti l'uomo ed effettivamente come non si può non essere d'accordo con questa affermazione sacrosanta, che avrà certamente ancora più valore per tutte quelle persone che da tempo sono alla ricerca di occupazione senza risultato. Eppure le aziende che cercano ce ne sono tante, ma questo match è proprio complicato, ma non possiamo perdere le speranze. Allora, se siete tra coloro a cui serve una vetrina sulle posizioni disponibili, oggi esce con il Sole 24 Ore il secondo numero di Lavoro e Carriere, la nuova iniziativa del quotidiano che per qualche settimana offrirà in termini molto concreti segnalazioni delle aziende che assumono, suggerimenti su percorsi formativi, le opportunità in Italia ma anche all'estero e le segnalazioni su un mondo di cui non si parla tanto frequentemente, che è quello dei concorsi pubblici. Oggi torneremo a sfogliare Lavoro e Carriere insieme nella prima parte della trasmissione, ma voi candidatevi anche ad intervenire all'800 24 00 24 se siete proprio l'esempio lampante in questo momento di questo match, come dicevo, che non funziona fra chi cerca e chi offre lavoro. E a proposito di lavoro, ci sono momenti nella vita di una donna in cui il lavoro passa in secondo piano, perché viene interrotto, sospeso per dare modo alla donna di occuparsi di sé e del proprio bambino. È il periodo del congedo di maternità. Un tempo si doveva interrompere l'attività lavorativa alla fine del settimo mese di gravidanza, adesso si può decidere di posticipare in base alle proprie condizioni di salute, in base alle proprie preferenze. In pratica si può lavorare anche fino all'ottavo mese compreso e poi recuperare il mese di congedo dopo il parto, a condizione naturalmente che il ginecologo sia d'accordo e che abbia fatto le adeguate valutazioni, abbia dato il suo placet. E noi ne parleremo nella seconda parte della trasmissione insieme alla professoressa Irene Cettina. Intanto potete iniziare a prenotare anche su questo tema i vostri interventi. Quali sono, mamme all'ascolto, ma anche congiunti delle neomamme o di chi sta diventando mamma, i vostri dubbi in merito a questo periodo della vostra vita, periodo molto delicato, i vostri dubbi dal punto di vista del benessere e della salute? 800 24 00 24, questa sarà la nostra pagina di Cuore di oggi. Le tre regole di lavoro. 1. Esci dalla confusione, trova semplicità. 2. Dalla discordia trova armonia. 3. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole. Albert Einstein. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole. Chissà in quanti si saranno messi subito in riflessione di questa terza affermazione di Einstein, perché magari potrebbe essere anche che non si trovino tanto d'accordo. Quando ci si ritrova in una situazione di difficoltà dal punto di vista del lavoro, in realtà, come dire, vederla dal punto di vista positivo è molto molto difficile. Comunque ci proviamo oggi con Cuore e Denari a creare, come abbiamo fatto lunedì scorso, questo match, questo incontro, parlando di lavoro, facendovi uscire se possibile dalla confusione, dandovi uno strumento lineare e semplice per cercare, osservando con lucidità e attenzione il mercato, incoraggiandovi, perché l'occasione favorevole, come dice Albert Einstein, spesso si trova proprio nel pieno delle difficoltà. È importante non solo puntare il riflettore sulle norme, come abbiamo fatto spesso con il Jobs Act e ancora prima con tutte le novità che aveva introdotto la riforma Fornero, ma è molto più importante far capire cosa cercano le aziende, sapere bene come candidarsi e con chi, evitando così quell'errore tanto diffuso che è la pioggia dei curriculum a tutti. Con noi stamattina intanto la curatrice delle pagine di Lavoro e Carriere del Sole 24 Ore, Francesca Barbieri, ben trovata. Ciao Francesca. Ciao, buongiorno a tutti. Ho fatto un lavorone come al solito e stamattina le stavo facendo i complimenti per il grande spazio dato alle mie Marche, il grande spazio dato alle Marche da questo punto di vista, poi magari ne parleremo. Abbiamo con noi stamattina anche Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia, benvenuto dottor Ceresa, ben ritrovate, grazie. Grazie a voi, buongiorno. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Allora raccontateci se siete alla ricerca di lavoro, se non capite in che punto il vostro profilo non è adeguato alle richieste del mercato, a questa fase particolare che vive il mercato del lavoro, perché appunto noi continuiamo a parlare e adesso ne parleremo anche con Francesca di tante aziende che cercano, tanti profili aperti e però tante persone che continuano a rimanere a casa perché non si capisce per quale motivo questo punto d'incontro non si riesce a trovare. Allora, in questo numero Il Sole, Francesca, hai realizzato per Il Sole un monitoraggio fra le 10 più grandi agenzie del lavoro private che operano nel nostro paese, in sostanza rappresentano la quasi totalità del mercato italiano. Cos'è stato appurato? Appunto, lo dicevo poco fa, che domande e offerta fanno molto spesso fatica ad incontrarsi. Noi forse parliamo anche della parte un po' patologica, immagino che però tanti incontri poi avvengano, no? Il risultato di questa indagine, 18.000 annunci in cerca di candidati, ho capito bene? Sì, dal monitoraggio che abbiamo condotto su 10 grandi operatori privati che rappresentano la quasi totalità del mercato, emerge che gli annunci in attesa di candidature in questo momento sfiorano quota 18.000. Sono molto gettonati gli ingegneri con diverse specializzazioni, in particolare nel campo dell'automotive e dell'informatica. Si ricercano anche impiegati tributari e fiscalisti e i classici impiegati amministrativi. Ma ci sono buone opportunità anche per le figure del turismo, come ad esempio i camerieri, i baristi, gli chef, e anche figure per la grande distribuzione, come i cassieri, i responsabili di reparto. Mm-hmm. Poi scandaglieremo magari settore per settore appunto questo mondo dell'offerta. Mi incuriosiva il fatto che tu parlassi nella tua inchiesta di lavoratori inviati in missione, che non è un nuovo modello contrattuale previsto dal Jobs Act, non è una nuova fattispecie appunto contrattuale. Ci spieghi esattamente cosa intendi con questo concetto, anche per capire se poi gli amici che ci seguono da casa possono candidarsi per i profili che già ci cominciavi ad indicare e che adesso analizzeremo più nel dettaglio. Allora, si tratta del contratto di somministrazione a tempo determinato, una formula che è stata introdotta dalla legge Biagi nel 2003 e che è stata modificata di recente lo scorso anno con il decreto Poletti, è stata semplificata. Allora, in pratica funziona così: il lavoratore viene assunto da un'agenzia per il lavoro che poi lo invia in missione alle aziende che hanno bisogno di quel particolare profilo. Per quest'anno, peraltro, alle agenzie per il lavoro sono applicabili le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, quindi questo è un effetto positivo che abbatte il costo del lavoro. Allora, se vogliamo entrare nel dettaglio, le aziende utilizzatrici possono ricorrere alla somministrazione a tempo determinato senza l'obbligo di indicare le cosiddette causali, le ragioni giustificatrici, però c'è una durata massima di 36 mesi. E, diciamo che la somministrazione a tempo determinato è simile al contratto a termine, però presenta delle, come dire, degli elementi di flessibilità maggiori. Intanto alla somministrazione non si applica il tetto del 20% che vale per il contratto a tempo determinato, cioè gli assunti a tempo determinato non possono superare il 20% degli assunti a tempo indeterminato, per la somministrazione non vale. E poi per i contratti di somministrazione c'è la possibilità di fare fino a 6 proroghe, mentre per i contratti a termine il tetto è di 5 proroghe. No, stavo pensando ad un aspetto tra quelli che ci hai indicato appunto all'inizio, sul quale mi voglio subito soffermare con Marco Ceresa, cioè gli incentivi contributivi appunto per le neo assunzioni vanno, se parliamo di un contratto di somministrazione, all'agenzia per il lavoro, ma non all'azienda finale che assume. Questo è un aspetto che non avevo colto, dottor Ceresa, e quindi grazie anche a questo nuovo vantaggio per voi introdotto dal Jobs Act avete un po' movimentato di più l'attività di Randstad in questo periodo. Ci dice che cosa state rifiutando di interessante, perché so che anche voi siete stati interpellati da Francesca Barbieri per fare un quadro dei settori che si stanno distinguendo per vivacità in questo momento, che stanno ricercando profili sul mercato. Ci dice intanto quali sono? Beh, prima di tutto è vero, nel senso che il mercato sta andando molto bene per noi, cioè i nostri clienti ci chiedono tante persone, per cui è un mercato in crescita. Non so se ciò è dovuto agli incentivi o è dovuto invece proprio a una ripresa economica che si sente abbastanza forte. Per quanto riguarda i settori, o meglio anche i profili richiesti, allora la ripresa fa sì che le aziende chiedano molti tecnici a tutti i livelli, cioè partendo dagli ingegneri fino agli operai specializzati e ai saldatori, per cui è molto richiesta in questa fase tutta, appunto, le persone che abbiano delle competenze tecniche. Anche molto richiesta sono le persone che hanno delle competenze aggiornate nel settore dell'IT. L'IT è molto in grande evoluzione. Information technology, tanto information per tradurlo a beneficio degli ascoltatori che non hanno confidenza esatto con questa terminologia. Ecco, gli informatici, per cui c'è molta richiesta. Questi sono, per quanto riguarda Randstad, i due forse settori più in crescita. Poi dipende da agenzia a agenzia, perché ognuno di noi ha dei focus particolari. Chiaramente. Allora, stavo già notando quello che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori, anche al 349-238-6666. Matteo, 32 anni, appena laureato in economia a Ca' Foscari, Venezia, giornalista pubblicista. Qua dovremmo fare, Francesco, un approfondimento solo su chi si candida a questa professione in questo momento. Esperienze nel volontariato, soprattutto con persone con disabilità. Lui si definisce empatico ma anche intransigente. Che fare? Dottor Ceresa, che cosa farebbe fare a Matteo in questo momento? Non si può dire senza aver conosciuto Matteo, nel senso che poi le competenze sono una delle cose essenziali per trovare un buon lavoro. Molto importante è anche la propria personalità e la propria cultura inteso come i comportamenti che questa persona mette in atto nelle giornate lavorative. Allora, quello che consiglio a Matteo è prima di tutto di rivolgersi a un'agenzia del lavoro come ad esempio Randstad, perché bisogna essere proattivi, cioè andare nelle agenzie per il lavoro, non aspettare che si venga chiamati, e poi presentarsi e avere una grande capacità di ascolto. Perché spesso vedo che quello che i clienti ci chiedono sono delle persone che abbiano, una volta si diceva, la testa giusta, no? E per avere questo è importante ascoltare quello che il consulente dell'Agenzia per il Lavoro ti dice, perché a volte è il modo in cui ti esprimi, è il modo in cui ragioni, sono interessi che hai o anche come ti vesti e così via che non creano questo match. Perciò la capacità di ascolto da parte dei candidati è molto importante, non tanto nei confronti di noi agenzie, ma perché noi sappiamo esattamente che cosa il cliente chiede alla persona e perciò possiamo suggerire determinate cose che poi il candidato può decidere di in qualche maniera secondare oppure non è disposto a mettere in mi chiodo. Colpisce molto, dottor Ceresa, perché lei lo ha fatto anche in una nostra precedente puntata, quella che abbiamo dedicato ai quarantenni, cinquantenni che rimangono senza lavoro, perché lì poi le situazioni sono ancora più delicate, non perché dobbiamo sminuire o sottovalutare la situazione in cui si trovano i ragazzi, perché quella è un'altra bella piaga, un grosso problema, però il tema del come ci si pone quando ci si candida per una posizione, mi ricordo mi era rimasto molto impresso il quadro delle considerazioni che lei aveva fatto, partendo addirittura anche proprio dal modo in cui ci si presenta ad un colloquio, come ci si veste, e questa sottolineatura della capacità di ascolto, appunto, vedo che lei la ribadisce più volte, segno che è un punto nel quale evidentemente i candidati sono carenti. Quindi facciamo un focus anche di suggerimenti su questo. Sì, sì, perché le faccio un esempio molto banale. Bravissimo. L'altro giorno ho incontrato un candidato che secondo me poteva benissimo svolgere, aveva le competenze, poteva benissimo svolgere il lavoro presso un nostro cliente. Però io conosco questo cliente vuole persone che si presentino in una determinata maniera e ero sicuro che questa persona non sarebbe stata presa in considerazione dal cliente perché aveva diversi piercing, no? nel viso e così via. Allora la domanda che io ho fatto a questo ragazzo è stato: è più importante per te mantenere la tua personalità con questi piercing oppure toglierteli e giocarsi una chance da questo cliente? Il ragazzo lì, che ha avuto capacità di ascolto e anche una certa disponibilità e flessibilità, ha detto: per un buon lavoro mi tolgo tutto. E guarda caso poi il cliente non si è concentrato sul suo aspetto estetico così via, ma ha guardato la cultura, il suo modo di porsi, le sue competenze. Si sono venuti incontro a metà strada entrambi sostanzialmente. Assolutamente. Perché purtroppo è così, ci sono delle persone, ci sono delle aziende che hanno delle esigenze che a volte sono un po' particolari e ognuno di noi è libero di decidere se accettare o non accettare queste loro esigenze. Chiarissimo. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Siamo già pronti a sentire cosa vogliono raccontarci Barbara dalla provincia di Como, Stefano dalla provincia di Ancona. Prima di sentire però un'altra questione con Francesca Barbieri, tornando alle missioni di cui parlavamo prima, i contratti di somministrazione, tu dirai certo, ma hai Ceresa lì perché non te lo fai raccontare da lui, sulla guida appunto del Sole 24 Ore, la guida al contratto, l'ha scritta il nostro amico Alessandro Rotaporta, che naturalmente è un consulente del lavoro, quindi dal punto di vista tecnico ci dà tutti gli estremi per comprendere bene questo contratto, ma tu hai fatto il monitoraggio fra tutte le agenzie, no? Mediamente questi rapporti di lavoro quanto possono durare, Francesca? Sì, ho sentito Assolavoro, che è l'associazione di categoria delle agenzie, e la durata media di queste missioni è di 48 giorni. Poi sentendo le 10 agenzie ho trovato dei dati che vanno da un mese e mezzo fino a molti mesi, addirittura oltre l'anno. Le missioni presso le aziende, poi naturalmente il rapporto invece con l'agenzia del lavoro è continuativo. Allora, il rapporto è, se si tratta di somministrazione a tempo determinato, non è continuativo. Ecco. C'è un'altra forma di somministrazione che è lo staff leasing. In questo caso sì, è una somministrazione a tempo indeterminato. Perfetto, quindi abbiamo conosciuto le due forme più importanti del concetto generale della somministrazione. Sì, ho trovato anche che un'agenzia mi ha indicato una durata media di queste missioni di 20 mesi, perché loro sostengono di ricercare figure, profili alti, medio-alti, quindi molti... Che hanno bisogno quindi di manager, una certa stabilità, sì, nel esatto, tempo, quasi quindi, 2 anni. Sì, come i manager, i controller di gestione, e quindi durate insomma superiori. Chiarissimo. Allora, sentiamo Barbara dalla provincia di Como, sentiamo la sua testimonianza, poi andremo ai mercati per poi sentire anche Stefano dalla provincia di Ancona. Barbara, benvenuta. Peraltro lei è proprio, come dire, la candidata esatta per la puntata di stamattina, perché poi parleremo anche di maternità. Benvenuta. Grazie. Ci dica grazie. Tutto. Allora, io telefonavo perché sono costantemente in cerca di lavoro da quando ho avuto il bambino, sono sempre stata in carriera, mi occupo di marketing, funzione che adesso è percepita come ciliegina sulla torta, quindi se ho i quattrini assumo, se non ne faccio a meno, oppure prendo magari qualcuno meno skillato e meno costoso. licenziata a seguito della maternità, poi sono riuscita a lavorare per un po', ma è una dura lotta, perché comunque, e mi metto dall'altra parte della barricata, quando c'è in giro talmente tanta gente che rispetto a me un uomo è sicuramente potenzialmente meno problematico. Quindi intanto in primo luogo un po' la discriminazione di genere, lei denuncia, Barbara, quanto ha il suo bambino tra l'altro? Come? Scusi, dicevo, questa è totale con competitor del dottor Ceresa che addirittura dicono, guardi, non posso dirlo, ma qua vogliono un uomo. No, quanto ha il suo bambino, Barbara? Per capire da quanto è fuori? Quattro anni o mesi? Scusi, 4 anni e sono... Sì. Quindi, insomma, fatico da allora. Lotta da un po' effettivamente per rientrare nel mondo del lavoro, una competenza specifica nel settore del marketing che però... Lei dice una ciliegina sulla torta, ma oggi per competere sul mercato, in ogni mercato, credo che invece le aziende debbano valorizzare in maniera adeguata questo aspetto e però evidentemente scelgono altre vie per farlo. Adesso sul suo caso ci torneremo. Barbara, dopo i mercati, intanto 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, gli interventi in diretta. Vedo anche che chiaramente utilizzando molti social network, e molti ci stanno scrivendo anche su Facebook e Twitter, c'è Valeria che appunto su Twitter scrive: ma i laureati in filologia classica hanno qualche possibilità di collocazione? Noi abbiamo veramente identificato prima i profili che ricercano le aziende in questo momento, focalizzandoci proprio su quelli estremamente tecnici. Valeria, adesso vediamo se riusciamo a fare un commento anche per lei. A tra poco. Cuore e denari. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. E di maternità parleremo nella seconda parte della trasmissione. Io non ho una grandissima esperienza personale da trasmettervi, però insomma sono piena di amiche che hanno figli, tanti nipoti, e quindi in qualche maniera cercheremo di portarla a casa in maniera adeguata questo programma, ma insomma, a parte tutto il folklore, seguiremo gli ultimi 2 mesi di gravidanza che di solito coincidono con l'inizio del congedo di maternità. Accompagneremo la mamma e il suo bambino nei primi mesi di vita, quindi cominciate, se siete interessati a questo frangente della vostra vita, ad approfondire magari anche gli aspetti problematici. Lo faremo tra poco. 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta. Sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere. Sotto questa proprio non me l'aspettavo. Oggi sotto il sole 24 ore troviamo il nuovo inserto lavoro e carriere, quella creatività, altro che marketing, di Isotta Scenna e Marco Lombardo, non ha proprio limiti. Vabbè, noi ne siamo anche ben contenti, li abbiamo tenuti anche per quello, d'altronde. L'inserto lavoro e carriere che ci accompagnerà ogni lunedì con il sole 24 ore per iniziare la settimana con una panoramica sulle principali offerte di lavoro nel nostro paese. 800 24 00 24 se fate parte di coloro che iniziano la settimana così, cercando lavoro. Quanto tempo dedicate a questa attività? Quali sono i vostri dubbi? Quali difficoltà state incontrando? Aspettiamo i vostri interventi che potremo commentare insieme ai nostri ospiti di stamattina. Torniamo a salutare Francesca Barbieri del Sole 24 Ore e Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia, al quale chiedo subito un commento sulla situazione di questa mamma di Como. Le chiedo, dottor Ceresa, il marketing è maschio? Ma direi di no. Prima di tutto anch'io sono padre di un bambino di 16 mesi e so cosa vuol dire dover coniugare la parte lavorativa e la parte, diciamo, familiare, no? Perciò ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi in cui magari bisogna dare anche un po' di priorità alla famiglia e poi riprendere invece quella che è la priorità lavorativa. Dopo 4 anni credo che però Barbara possa dire di avere le idee chiare, no? Sulle priorità. Credo di sì. No, non penso che sia solo maschile il marketing. E anche qui, di nuovo, bisogna poter incontrare Barbara, capire, dialogare e tentare di capire come mai non riesce a trovare la soddisfazione. Poi c'è da dire che a volte le persone hanno delle ambizioni che si fa fatica a realizzare e allora è molto importante anche avere qualcuno di esperto vicino, perché ti può anche dare una mano a capire se quelle che sono le tue ambizioni possono essere realizzate oppure no. Ma stavo... non è il tema di stamattina, dottor Ceresa, però in realtà questo aspetto sottolineato da Barbara mi colpisce inevitabilmente, no? Ma mi chiedo, ci sono ancora aziende, magari anche quelle che si rivolgono a voi, per cui impostano in una determinata maniera molto molto seria la ricerca appunto di personale, che vi chiedono esplicitamente: io per questo profilo donne non ne voglio, ma può essere anche al contrario, la discriminazione, non mi serve un uomo, qui voglio una donna perché c'è bisogno di un certo modo di porsi. No, non lo so, stiamo parlando ancora di questo oggi nel 2015? Sì, io può sono capitare. Sempre sincero. Sì, sì, certo, ma è giusto. Quello che è. Ci sono delle aziende che ci chiedono o la vogliono uomo, o la vogliono donna, o la vogliono giovane, o la vogliono italiano, o la vogliono così via. Noi ricordiamo sempre che questa è una richiesta che loro non ci possono fare, perché noi dobbiamo scegliere le persone in base a quelle che sono le competenze, la personalità e così via. Non possiamo fare ricerche solo aperte a uomini o solo aperte a donne o così via. Perciò, però è vero che ci sono delle aziende che fanno ancora questo tipo di richieste, facendo poi riflettere queste aziende, una buona percentuale poi capisce e ci lascia suggerire i candidati che noi riteniamo migliori. Ma altre sono irremovibili, in sostanza. Allora, dottor Ceresa, adesso torniamo da lei un attimo. Volevo sentire da Francesca, perché nel frattempo che eravamo in pausa abbiamo cercato anche sugli annunci pubblicati oggi da Lavoro e Carriera, appunto, se ci fosse qualche profilo di marketing per la nostra Barbara, che oggi insomma ci siamo prese a cuore e vogliamo aiutare. Vedo nella prima pagina che qualche cosina forse per lei c'è. Oggi il marketing è, come dire, una disciplina che sarebbe molto utile sviluppare, soprattutto nel settore dell'e-commerce, no? Sì, oggi sulla prima pagina di Lavoro e Carriera abbiamo fatto un focus sulle professioni digitali. Abbiamo selezionato un po' di aziende, di multinazionali che cercano profili. E adesso, guardando bene, abbiamo spunto visto che ABB, che è la multinazionale che opera nel campo delle tecnologie per l'energia e per l'automazione, cerca anche figure specializzate nel marketing, dei marketing manager un po' in tutta Italia. Non sono tantissime le posizioni aperte, sono 25 comunque, insomma. Certo, però un'idea potrebbe anche essere quella, per esempio, di non lo so, dottor Ceresa, adesso io qua mi sto candidando anche a dare delle soluzioni a Barbara, che magari neanche vorrà prendere in considerazione. L'e-commerce consente anche ad una donna di lavorare da casa, con il concetto nuovo dello smart working o il telelavoro, chiamiamolo magari con un termine più forse comprensibile per i nostri ascoltatori. Si possono anche fare delle consulenze a distanza per questi siti nuovi che stanno sorgendo, no? Magari Barbara non ci ha pensato. Assolutamente sì, devo dire che di nuovo l'Italia è sempre un po' in ritardo, ma quello che noi vediamo è che sempre di più si gestiscono delle persone che lavorano da casa oppure lavorano da luoghi diversi da quello che è la sede dell'azienda. Certo che anche nel marketing ci sono stati dei grandi cambiamenti, no? Perciò se io penso a quando mi ero laureato io, era diverse quelle che erano le competenze che dovevi avere nel momento in cui dovevi trovare lavoro. Oggi il marketing è molto vicino a quelli che sono tutti gli sviluppi informatici, in particolar modo sull'e-commerce e su internet. Ma anche lì credo che ci sia una discreta domanda. Certo. Allora, Stefano dalla provincia di Ancona, che abbiamo fatto lì attendere in salamoia per un po'. Stefano, benvenuto, eccoci qua a lei. Buongiorno. Buongiorno, intanto. Complimenti Deborah e buongiorno dottor Ceresa. Una domanda: io sono un libero battitore, uno che ha seguito il mercato secondo le vostre direttive della radio, e la Fornero mi sarebbe molto grata. Sì, perché invece di insistere sulle mie skills ho seguito cosa voleva il mercato. Il mercato voleva l'export e dopo un'esperienza con la Cina mi sono scelto un paese in forte crescita che era il Perù. Sono appena tornato da 15 giorni dall'ultima missione commerciale, ma il problema mio adesso è il seguente. Io di solito mi scelgo le aziende e vado in Perù a fare quello che dovrebbe fare la Camera di Commercio, con tutto rispetto per la Camera di Commercio, però alla fine mi ritrovo sempre spesso ad aiutare io la Camera di Commercio piuttosto che la Camera di Commercio aiutare me. A parte questa parentesi, il mio problema è adesso cercare un'azienda capace e grande che mi possa dare un mandato ufficiale, perché io da solo là ci sono degli anni che, come dire, va bene, ma basta un piccolo problema che mi fa aumentare le spese locali, per cui il mio guadagno più di tanto non c'è. E lei dice, insomma, come cerco, che chiaramente Stefano non necessariamente deve essere nelle Marche, lei avrebbe bisogno di un'azienda anche che sia in un altro posto d'Italia, no? Può essere anche straniera, l'importante è che abbia bisogno di aprire il mercato in Perù, che ormai dopo 3 anni è diventato il mio capitale di network. Che bella storia, Stefano, la sua. Guardi, adesso costringerò Francesca a scriverla per la prossima pagina di Lavoro e Carriere. Sto scherzando. Sul tema degli export manager, Francesca, avete fatto degli approfondimenti, nel senso che ci sono molte agenzie che individuano proprio questi profili come quelli fra i più ricercati. Sì, in questo periodo sì, sono ricercati gli export manager, è inutile dirlo, è fondamentale conoscere benissimo l'inglese, ma spesso anche un'altra lingua, ad esempio il cinese, il russo, sono requisiti importanti. E infatti. Allora, dottor Ceresa, come facciamo a trovare a Stefano un'azienda che gli dia, mettiamo che ne prenda anche due, no? Però insomma due bei supporti importanti che gli diano un mandato ufficiale ad operare per loro conto in questo paese. Parliamo di Stefano e del Perù, ma potrebbe esserci all'ascolto anche Giovanni, che magari invece ha un focus specifico, non dico sulla Cina perché lì ci si sono specializzati anche in tanti ormai negli ultimi anni, ma magari in un altro paese, in un'altra nicchia. Questo match come lo facciamo fare a Stefano? In questo caso una società come Rast Italia non può molto aiutare Stefano, però quello che penso è che Stefano deve avere ben chiaro quello che il mercato del Perù in questo momento cerca. Una volta che ha individuato quello che il mercato cerca e quello in cui lui ha una certa affinità, poi io per mia esperienza mi baserei su, prima, una ricerca su internet per capire quali sono le aziende italiane o non italiane che eccellono in quel settore, dopodiché le andrei a contattare e proporrei quelli che sono i miei servizi. Ma un'agenzia come Randstad, per esempio, non potrebbe essere interessata a creare anche un filone di questo tipo, no? Supportare profili come quello di Stefano, export manager, perché tanto ormai, visto che insistiamo sempre tanto sulle internazionalizzazioni, oppure per voi è un investimento che magari in questo momento non ha senso, dottor Ceresa? No, quello che noi potremmo fare nel momento in cui Stefano si presenta in una nostra agenzia è vedere, però poi si limita un pochettino a livello territoriale, vedere quali aziende in quel territorio hanno bisogno di un export manager. Ma il mio suggerimento, la cosa interessante di Stefano è che ha un imprenditorialità dentro di sé, no? E allora tenterei di, una volta aver capito bene che cosa cercano in Perù, poi cercare un'azienda qui, e vedo che le aziende in questa fase di mercato di crescita sono più invogliate rispetto già all'anno scorso a fare degli investimenti, per cui penso che possa trovare delle aziende qua in Italia. Suggerisco anche a Stefano, magari l'ha già fatto, arrivo tardi, di farsi un bel sito anche, molto professionale, molto ben costruito, dove le aziende possano trovarlo, grazie al quale le aziende possano trovarlo. Magari Stefano l'ha fatto, se l'ha fatto ce lo mandi, così andiamo a curiosare e la aiutiamo a veicolare anche la sua proposta. Allora, io adesso devo andare, suggerimenti per chi è in viaggio. Dottor Ceresi, so che avrei dovuto lasciarla, ho solamente un'altra domanda per lei, ha 2 minuti di tempo per trattenersi? Certo. La ringrazio, tra poco. Cuore e denari. chiesto agli ospiti di Denari di stamattina di trattenersi ancora un minutino, perché vorrei concludere questo discorso con il tema del feedback che devono dare le agenzie quando ci si rivolge a loro per trovare un'occupazione. Allora sento, prendo spunto la telefonata di Marco da Milano, che sentiamo al volo. Marco, benvenuto. Buongiorno, volevo chiederle questo. Io non capisco una cosa. Io faccio il disegnatore e mi hanno un'agenzia mi ha proposto di andare a lavorare in un'altra azienda, però io già lavoro presso questa. E l'agenzia mi dice: vai nella nuova azienda, però vai con un tempo determinato e poi tra 6 mesi ti fanno il contratto a tempo indeterminato, così loro possono godere degli sgravi fiscali. Però io, scusi, adesso lavoro a tempo indeterminato, perché questo passaggio? Ecco. Allora Marco, anche lì bisognerebbe valutare un po' bene tutto questo percorso che le è stato suggerito. Non so, dottor Cereda, se lei ci ha capito qualcosa. No, se è possibile che gli abbiano Sì, ho capito che ognuno ha degli interessi. Allora probabilmente bisogna andare ad analizzare gli interessi dell'azienda, gli interessi dell'agenzia e gli interessi della persona. Allora non si può giocare sugli interessi della persona, perciò se la persona è motivata a cambiare lavoro per delle questioni importanti, allora dico, può prendere anche in considerazione un tempo determinato quando l'agenzia sa già che ci sono buone probabilità che questo tempo determinato diventi un tempo indeterminato. Però c'è del rischio, per cui è sempre il candidato che alla fine deve decidere, deve valutare. E poi si faccia, insomma, Marco, anche spiegare bene di nuovo, se non l'ha compreso, il percorso che le viene suggerito, le motivazioni che ci stanno dietro. Appunto, capisco che si può in questo momento un'azienda avvantaggiare degli incentivi contributivi, però appunto non si capisce per quale motivo. C'è anche tutta la questione del demansionamento in realtà in ballo, ma non so se esattamente, Marco, possa essere anche ricondotto a questa situazione. Magari ci scriva Marco e andremo a valutare, però... Dottor Cereza, l'ho fatta trattenere perché a me quello che interessa capire è per quale motivo molto spesso, perché se ne stanno lamentando moltissimi ascoltatori che colgono l'invito che noi facciamo anche in primo luogo quando si rimane a spasso senza occupazione, di andare chiaramente a rivolgersi all'agenzia appunto per il lavoro che si trova nella propria città, nel proprio paese, nella propria provincia, no? Ci si lamenta molto spesso, lo vedo qua da tanti ascoltatori che ci scrivono e telefonano, che i feedback non arrivano. Allora si porta il curriculum, avviene la cosiddetta presa in carico, se non mi ricordo male il gergo che utilizzate, del lavoratore, e però molto spesso in tanti non ricevono poi più una risposta, neanche se appunto la risposta deve essere completamente negativa e dire: guarda, è un curriculum del tutto inadeguato, qua non troverai mai niente se non fai qualcosa per te. Però così non va bene, magari voi non lo fate e non lo fanno le 10 agenzie che il Sole 24 Ore ha interpellato appunto per questa indagine, però capita. Che cosa dobbiamo pretendere quando cerchiamo un interlocutore di questo tipo come lavoratori, e quindi siamo in una posizione di debolezza e molto spesso non sappiamo neanche bene come porci nei confronti di queste istituzioni e strutture alle quali ci rivolgiamo? Ceresa. Guardi, l'indicazione che io do ai miei colleghi in filiale è sempre quella di capire se l'interlocutore è pronto a ricevere un feedback costruttivo. E nel caso affermativo, allora noi diamo dei feedback costruttivi. Nel caso in cui ci rendiamo conto che qualsiasi tipo di feedback può essere, diciamo, non utilizzato per migliorare le possibilità di trovare lavoro, evitiamo di darlo. Perché sennò si entra in una polemica che secondo me è poco costruttiva. Quindi comunque è una scelta, per cui no, ma anche per far capire alle persone che prendano atto di questo fatto, e quindi magari è il caso di tentare altre strade. Io non riesco a far intervenire Franca da Milano, che voleva raccontarci di suo figlio, oltre 40 anni, a casa da 2 anni. Franca ci scriva, vediamo se possiamo aiutarla magari in privato a darle un indirizzo. Volevo fare un ultimo quadro a Francesca Barbieri sulla grande distribuzione che è molto attiva su tutto il territorio nazionale. Non saranno contenti i piccoli negozi che continuano a chiudere, ma proprio le insegne della grande distribuzione, i grandi centri commerciali, a quanto pare non conoscono crisi e assumono. Beh sì, continuano cercano ad assumere, magari un po' di crisi la sentono anche loro. Ecco, oggi segnaliamo l'ultima campagna acquisti che è stata lanciata da Lidl, la catena discount tedesca, che ha approvato nei giorni scorsi un piano di oltre 2000 assunzioni da fare in Italia in 2 anni, 400 subito. Assunzioni che per gran parte saranno a tempo indeterminato e riguarderanno soprattutto laureati in materie tecniche ed economiche, ma anche diplomati con esperienza ovviamente nel comparto della grande distribuzione. Certo. Allora, grazie a Marco Ceresa, dottor Ceresa, grazie per essere stato con noi. La ricontatteremo presto perché la sua franchezza e la sua onestà intellettuale l'apprezziamo moltissimo. Grazie a voi. Buona giornata, Francesca, grazie. Ti lasciamo andare al lavoro per la prossima. Il prossimo numero di Lavoro e Carriere. Grazie. Noi andiamo al nostro prossimo approfondimento. Qui c'è qualcuno che bussa, ma non alla porta, è dentro di me. Sento la mia adrenalina salire, salire ancora più in su. Allora, intanto che bussa c'è certamente la professoressa Irene Cettin, primario del reparto di ginecologia all'ospedale Sacco Università di Milano. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Allora, io l'ho fatta aspettare, qua il lavoro bussava ancora di più alla porta, la richiesta di lavoro da parte di molte persone, per cui noi adesso con tutto il nostro approfondimento che riguarda mamme o neomamme, giovani donne che saranno mamme tra poco, lo faremo molto dettagliatamente a partire dalle 12:08 circa dopo il giornale radio. Ma magari subito qualche suggerimento a chi ci ascolta possiamo darlo, no? Un tempo il congedo di maternità iniziava al 7° mese, adesso la donna può posticipare. Secondo lei è una buona o una cattiva cosa questa? In 20 secondi. Assolutamente una buona cosa, a patto che la gravidanza sia normale e che il tipo di lavoro lo consenta. Quindi non forziamo la mano in questo momento, magari godiamocelo un po', parlo io dall'alto della mia esperienza che non sono neanche mamma. Dottoressa Cettin, allora ci fermiamo adesso, 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi anche per il tema di cuore, a tra poco. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Cuore e denari. E allora meglio fermarsi al 7° o arrivare all'8°? Non parliamo di piani, di un grattacielo, ma di mesi di gravidanza. Un tempo il congedo di maternità, lo ricorderete bene, iniziava il 7° mese. Adesso la donna può decidere di posticipare in base alle proprie condizioni di salute e preferenze e recuperare questo mese dopo il parto. Ginecologo permettendo, naturalmente, come ci ha già raccomandato prima della pausa per il giornale radio, la nostra ospite di questa mattina, quindi risalutiamo con grande piacere la professoressa Irene Cettin, primario del reparto di ginecologia all'ospedale Sacco Università di Milano. Eccoci dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Allora, 800 24 00 24, noi però aspettiamo come sempre i vostri interventi, quindi mamme, papà, nonni all'ascolto, che avete una giovane mamma o una quasi mamma che vi sta a cuore, quali sono i vostri dubbi? In quali casi è meglio secondo voi andare in maternità prima e quando invece si può continuare a lavorare? Quali sintomi è bene tenere sotto controllo, non strafare? E poi quali sono le vostre domande sui primi mesi dopo il parto, quando arriva quella piccola rivoluzione o grande rivoluzione per l'effetto di questo piccolo esserino che arriva naturalmente a darci tanta felicità, ma stravolge anche tutte le nostre abitudini. Quali sono gli esami da fare, come affrontare l'allattamento? Insomma, qua abbiamo una puntata molto ricca che avremo bisogno di naturalmente allungare all'infinito, ma cercheremo di fare un punto della situazione utile per tutti voi. Allora, professoressa Cettin, il 7° mese, per tradizione al 7° mese si inizia il congedo di maternità, segno che a partire dalla 28ª settimana, quindi proprio 2 mesi prima del termine, 31esima 32esima settimana, è bene che la futura mamma riduca stress e fatiche inutili. Lei qualche indicazione ce l'ha già data prima della pausa, ma vogliamo ribadire il suo parere su come deve essere affrontato questo specifico momento della vita di una donna. Allora, direi che la nostra legislazione prevede una pausa dal lavoro abbastanza lunga, ma che in realtà poi è chiaramente andrebbe un pochino personalizzata, perché la verità è che in gravidanza in realtà si sta bene se la gravidanza è normale, se la donna non ha dei fattori di rischio precedenti o nel corso della gravidanza, insomma se è tutto assolutamente fisiologico. E il tipo di lavoro che si svolge è un lavoro che adesso poi magari lo definiamo meglio, però che lo consente. In realtà paradossalmente una donna potrebbe lavorare anche fino al termine. Io ho avuto pazienti che non godevano dei benefici della legge italiana, perché per esempio recentemente ho avuto una paziente israeliana che lavorava a Milano ma non aveva questo tipo di possibilità. Ha avuto una gravidanza assolutamente fisiologica e ha lavorato fino al giorno in cui è iniziato il travaglio. Ma basterebbe aprire il capitolo delle lavoratrici autonome, no professoressa, esatto. Per andare a fare degli esempi molto concreti. Ecco. No, infatti, invece in realtà paradossalmente ci sono, e questo però la legge italiana lo prevede, ci sono situazioni dove ovviamente o per dei fattori di rischio medici o addirittura anche perché la tipologia di lavoro non consente di ridurre il lavoro, adesso spiego come. Quindi in questi casi la donna ha senso che addirittura non lavori nemmeno precedentemente al famoso ottavo e nono mese. E questo quindi, entrando nel merito proprio del tipo di lavoro, il problema qual è? Che il lavoro è stato visto che se un lavoro obbliga la donna a stare in piedi, cioè in stazione eretta, per più del 50% del tempo, questo non è adeguato a una situazione gravidica. E proprio ci sono addirittura stati dei lavori scientifici che hanno dimostrato che se è così ci sono proprio delle differenze nei parametri antropometrici, cioè nelle misure del bambino alla nascita, anche se poi i bambini stanno bene, però crescono un pochino meno, è un po' come l'effetto simile all'effetto del fumo in pratica. Ecco, questo è una prima cosa. Poi ovviamente ci sono lavori dove magari per esempio, non so, penso al lavoro in ospedale, cioè ci sono tipologie di lavori che non possono essere svolti perché magari mettono a contatto con gas anestetici, o con possibili sostanze tossiche o cose di questo genere, per cui o un rischio maggiore di contrarre infezioni, per cui in questi casi però la cosa corretta sarebbe che il datore di lavoro potesse riconsiderare il tipo di lavoro che quella persona svolge durante la gravidanza, per cui per esempio comunque se è un medico magari non vorrà neanche, cioè io ho delle colleghe che recentemente mi hanno detto ma io non voglio essere obbligata a non lavorare in gravidanza perché magari non posso stare in sala parto, però quindi abbiamo ragionevolmente trovato altre mansioni, sì, tra delle mansioni in cui comunque non erano magari in sala operatoria, quindi questo sicuramente si deve cercare di fare. Purtroppo ci sono datori di lavoro che non sono sempre disponibili in questo senso e preferiscono dire alla donna alla legge alla lettera, diciamo, e quindi insomma no, guarda, tu devi andare in maternità, come si dice, perché non si utilizza neanche il concetto del congedo, no dottoressa, e quindi è così. In ogni caso invece lei quello che suggerisce, con un po' di buon senso, poter personalizzare e questa è chiaro che poi la legge non può personalizzare proprio il singolo individuo perché deve comunque fare un po' delle cose un pochino generali, quindi la legge attualmente ha consentito che una donna che ha una gravidanza comunque fisiologica, perché il medico deve certificare che la gravidanza sia normale, che quindi non ci siano dei fattori di rischio, a patto che chiaramente non abbia già usufruito del periodo della gravidanza a rischio, perché in quel caso non può poi dire voglio però continuare a lavorare fino all'ultimo. Esatto. Quindi ecco, se c'è stato questo episodio durante la gravidanza è assolutamente sconsigliato invece poi mantenersi sulla... Infatti, però comunque se invece la donna ha lavorato fino a quel momento e sta andando tutto bene, può lavorare fino all'ottavo mese, quindi stare a casa sostanzialmente un mese prima del parto, dalla 35esima, 36esima settimana, cioè un mese prima della data presunta, perché ovviamente possiamo solo ragionare sulla data presunta. Allora, chiaramente noi abbiamo fatto questo focus con la professoressa Cettine nei casi in cui tutto sia assolutamente lineare, in cui la gravidanza proceda al meglio, poi vanno tutte naturalmente nella gran parte dei casi bene, però ci sono anche delle situazioni in cui invece ci sono dei costanti, frequenti malesseri tipici soprattutto degli ultimi mesi di gravidanza. Adesso con la professoressa Cettina li passeremo in rassegna per capire anche a quelle mamme che magari stanno tra virgolette cimentandosi alla prima gravidanza, che non le sanno, che non li sanno ben gestire ed affrontare. Però intanto voglio sentire anche la testimonianza di una mamma, di Natalia, della provincia di Cremona, che saluto perché vuole raccontarci che lei insomma è stata un'indomita e ha lavorato fino all'ultimo. Natalia, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutte. Io confermo che nel 2005 avevo il termine al 2 di giugno, feci la richiesta, non fu facile perché comunque sia il mio ginecologo mi dava l'autorizzazione, ma serviva l'autorizzazione del medico del lavoro. Fortunatamente lui ebbe del buon senso e mi disse: tu come stai? Io sto bene. E allora consento, fu proprio una cosa fatta gli ultimi giorni, e mi diede proprio la possibilità di lavorare fino ai primi di maggio. La bambina poi è nata il 29 maggio, per cui proprio l'ultimo mese a casa. Posso confermare che la stanchezza provata nell'ottavo mese effettivamente è molta di più rispetto al settimo mese. Io ho avuto una gravidanza fantastica, è andata benone, ma l'ottavo mese è stato pesante. D'altronde Natalia, qua si diventa necessariamente un pochino più ingombranti, anche se magari chi li ha acquistati, professoressa Cettin, sono pochi, ma comunque il nostro corpo è completamente trasformato, il peso è tutto sbilanciato in avanti, ne risente la schiena, no? Certo. E per cui è abbastanza anche naturale, anche se ci sembra di stare in una situazione idilliaca, ma in ogni caso le condizioni oggettive sono ben diverse rispetto a quello di otto mesi prima. Sicuramente, no, sicuramente il corpo della donna in gravidanza cambia radicalmente. Pensate soltanto a questo fatto, che in gravidanza aumenta la gittata cardiaca, cioè il lavoro che il cuore fa diventa 50% in più, cioè la quantità di sangue che il cuore pompa è 1,5 litri in più di quello che era prima della gravidanza, cioè i litri di sangue sono 5-6 mentre prima erano 4. Per cui è ovvio che tutta una serie di attività, anche semplicemente salire un piano di scale, diventa più faticoso. E allora andiamo invece a quell'argomento che introducevo poco fa, professoressa Cettin, no? I disturbi, i malesseri tipici degli ultimi mesi di gravidanza, oltre a questi che lei ci ha già elencato. Allora, molte mamme riferiscono intanto di disturbi digestivi che sono accompagnati da questi sensi, da queste sensazioni di bruciore alla bocca, dello stomaco, fino addirittura alla gola, no? Un po' la sintomologia ricorda quella tipica del reflusso gastroesofageo. E invece in che cosa consiste questo disturbo, professoressa? Cosa si deve fare, come lo si deve gestire, come lo si può gestire? Ma allora, la gravidanza sicuramente, appunto, sempre perché si modificano tutta una serie di aspetti, modifica anche l'apparato digerente, in generale la funzione dell'apparato digerente. Nel primo trimestre chiaramente sappiamo che c'è una certa tendenza alla nausea, non hanno tutte le donne gravide, però per alcune donne in gravidanza questo è molto invalidante, che di solito è legato proprio ai primi tre mesi. Poi c'è un periodo di relativa tranquillità e benessere, che sono i tre mesi e mezzo, cioè il quarto, quinto e sesto mese. In genere sono mesi in cui la maggior parte delle donne, parlando proprio in generale ovviamente, però diciamo in generale è il periodo in cui si sta meglio. Dopodiché, proprio perché aumenta il volume dell'utero e quindi sostanzialmente si arriva con l'utero più vicini allo stomaco, cosa succede? Che in pratica c'è proprio un pochino questa tendenza ad avere una difficoltà di digestione e un pochino effettivamente di reflusso. Anche lì non è uguale in tutte le donne, ci sono donne che non hanno disturbi e donne che hanno molti disturbi con gradazioni intermedie. Ci sono donne che hanno proprio questa sensazione continuamente di non riuscire a digerire, di avere la sensazione proprio di avere aerofagia anche continuamente. E in questi casi ovviamente un primo consiglio, sono molto simili ai consigli del reflusso gastroesofageo, cioè è meglio la posizione, cioè per esempio non conviene di notte sdraiarsi in modo completamente sdraiato, ma tenere un pochino più in alto la parte superiore del corpo, cioè essere magari con un paio di cuscini quando si dorme, e dall'altro anche cercare di non mangiare pasti troppo abbondanti, cioè suddividere molto i pasti in pasti un po' più piccoli, quindi non riempire troppo lo stomaco. Ed eventualmente ci sono anche, cioè se il disturbo è veramente molto forte e c'è anche la sensazione proprio di bruciore, esistono anche degli dei farmaci che certo. sono compatibili con la gravidanza, che si possono prendere su, naturalmente con il consiglio del medico. Chiaramente. Ecco, teniamo conto che non bisogna mai dimenticarsi che comunque anche in gravidanza, se un disturbo è veramente molto importante dopo che è stato valutato dal medico, eccetera, potrebbe essere necessario, cioè non dobbiamo sempre dare completamente per scontato che sia soltanto legato alla gravidanza, ma dobbiamo comunque essere sicuri di escludere che non ci sia una patologia sottostante. Allora, intanto mi ero un po' distratta, professoressa Cetin, perché alle 349-238-6666 a proposito dei congedi ci scrive Davide da Verona che voleva sapere se esiste anche quello di paternità. Siccome esiste, Davide, mi colpisce questa domanda perché non capisco se è come dire una provocazione. In realtà esiste anche questo istituto nel nostro paese, chiaramente non potete prendervi 5 mesi complessivi, quindi in relazione la data presunta del parto, se ci scrive però le daremo tutte le indicazioni del caso. Il periodo è un po' più breve, ma anche lei può prendersi questo periodo di aspettativa appunto dal lavoro per seguire la nascita del suo bebè e comunque la modifica di questo nucleo familiare. Il pancione, professoressa Cettin, diventa ingombrante, cresce naturalmente, la mamma modifica la sua postura e i suoi movimenti. E questo naturalmente provoca un senso di peso. Poi parleremo della schiena, ma parliamo della parte in avanti, anche al basso ventre, che crea fastidio e preoccupazione. Allora magari qualche volta si può fare un po' di confusione, no? Sulla ci può essere anche difficoltà a capire la differenza fra una condizione normale, quindi di pressione che deve esserci, o un vero e proprio malessere che deve invece metterci in allerta. Come facciamo a distinguerlo? Non è sempre proprio facilissimo, però allora, una delle prime cose che ovviamente succede, che tutte le donne provano, è che c'è questo bisogno di urinare più frequentemente, uh-huh. perché la vescica viene chiaramente un po' compressa, e questo è fisiologico, a meno che non ci sia proprio anche un bruciore, cioè dei disturbi diversi, cioè non solo la sensazione di dover fare la pipì ogni due ore, ma anche proprio la sensazione di avere degli altri disturbi. In quel caso, anche perché in gravidanza la cistite è molto più frequente, quindi, e va curata, tra l'altro, anche lì esistono dei farmaci apposta, perché sono molto pochi i farmaci che sono completamente controindicati in gravidanza, però ovviamente bisogna sempre sentire il proprio ginecologo, il proprio medico, l'ostetrica. Ecco, per quanto riguarda invece il dubbio che ci siano delle contrazioni vere e proprie, questo diciamo che non è sempre facilissimo. Allora, normalmente è possibile che una donna comunque abbia delle contrazioni che vengono chiamate in realtà contratture, anche fisiologicamente, nel corso della gravidanza, perché l'utero comunque è un muscolo, un po' come una lumachina che ogni tanto si contrae. E questo è una specie di esercizio fisiologico che fa, però questo non deve succedere frequentemente, perché se succede molto frequentemente può essere un campanello d'allarme per un rischio di parto prematuro. E quindi in questo caso direi che prima di tutto è la frequenza di quante volte succede questa sensazione che ci deve fare pensare se è pericoloso o meno. Se succede una o due volte al giorno non è pericoloso, se succede più di 5 volte al giorno, tutti i giorni, non è normale. E soprattutto il fatto di avere anche dolore mentre c'è questa sensazione, perché la contrazione più pericolosa è quella dolorosa. Quindi, quando a volte una donna mi dice, si preoccupa e dice, ma io magari non mi accorgo di avere le contrazioni, se non se ne accorge non si deve preoccupare, perché comunque è qualcosa proprio di quasi di percepibile. Sì, assolutamente, la contrazione, la sensazione è che tutta la pancia si stringa e faccia anche un po' male, si indurisce tutto quanto, si indurisce tutto, ecco, sì. Ecco, sempre per sentito dire, professoressa Cettin, perché l'esperienza, ecco, in diretta io sono una maestra in quello, non in quella diretta. C'è un'ascoltatrice che ci scrive, probabilmente fa questo lavoro, perché è istruttrice di Pilates e bodywork, quindi evidentemente si lavora in palestra, si può andare secondo lei col pancione fino all'ultimo? È ovvio, a patto di non fare delle cose, però anzi, un po' di movimento. Sì, non mi metterei a fare magari gli addominali, ecco. Cioè, per espellere prima il bebè, prima del tempo, esatto. Con questo esercizio. Esatto, sì. Professoressa Cettin, avremmo avuto tanti altri argomenti da discutere con lei, sono certa che la mia amica Nicoletta Carbone la richiamerà al più presto, perché non ne abbiamo esauriti tutti, ci sono invece tante curiosità da parte delle nostre ascoltatrici e anche dei nostri ascoltatori che vogliono sapere tutto su come gestire i primi mesi prima del parto e quelli immediatamente dopo. Quindi si riprepari perché la richiamiamo presto. Intanto va grazie bene. Molte. Grazie a voi. Buon lavoro, grazie. Grazie a tutti. Allora volevo solo segnalare ai nostri ascoltatori che oggi Melog arriva tra poco, dedica una puntata speciale in diretta al naufragio nel Mediterraneo, a questa immane tragedia che stiamo continuando a commentare, una diretta, quindi preparatevi, che raccoglierà le impressioni di voi ascoltatori su questa sciagura. Grazie a Esotta Shen, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione. Noi con Nicoletta Carboni chiaramente torniamo regolarmente domani in diretta a partire dalle 11. A tutti buona giornata.